ci collega e fa sì, perché fanno il video appena trovano il programma. Ma in qualsiasi caso ci sentite. Ci fanno niente di cose, ci vuole mettere che non è stato funzionare. Che cazzo del programma è un programma che non funziona e fa subito. Sì, ma non è che usano il programma, partono, fanno il video e già è tutto perfetto. Ma non sto facendo quello, ma quanto meno un programma che debba stabilizzare... Ho detto chissà quanti programmi hanno usato prima di trovare quello che funziona, prima di fare il video. Chi si so? Io sono in terza pagina, sono nelle prime pagine. Cioè io vi sento bene a voi, siete voi che non mi sentite buona a me. Capì? Dai che vieni, andiamo. Cioè io vi sento bene a voi, siete voi che non mi sentite buona a me. Ma tu ci senti in tempo reale? Abbastanza. Sì. Lui ci sente in tempo reale. Noi non sentiamo lui in tempo reale. No, non è vero. Io so. Non è vero neanche questo. Perché io adesso ho sentito vieni, Tucker, vieni. È vero, vieni. Io mi sono... Abbastanza. Sì. Non litigate. Marco, vedi che è strano un fatto. Io mi sento a buia. Ma poi ci mi ha buia in realtà. Ho capito, ma tu vai a vedere le cose del 2015. 2012. Cioè, sono cose che funzionavano una vita fa, ma non funzionano più. Posto innanzi a me, non è certo. Marco, vedi che è strano un fatto. Io mi sento a buia, ma poi ci mi ha buia in realtà. Che cervello la cosa, ne è all'infinito. Memo, che è successo?